Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Con Spelacchio devono fare Pinocchio! Vai Pinocchio, risorgi per noi! Ciao Milan! L'Aurice e un abete sono diversissimi. Chiunque vada un po' in montagna sa che l'Aurice è naturalmente normalmente spelacchiato rispetto a un abete rosso. Non sarà mai possibile offrire la stessa suggestione natalizia tra un abete rosso e un Aurice. Anche solo per la forma dei rami e l'inclinazione dei rami. Per me la Fire Spelacchio è un sabotaggio. Mamma mia, tutti esperti di Spelacchio, ma perché ci siamo occupati di questa notizia? Io non lo so, io non è che volevo proprio molto occuparmene, però. Sai, saremmo rimasti gli unici a non farlo e non potevamo perdonarcelo. Bene, bisogna distinguersi, bisogna essere diversi, bisogna essere originali, come siamo noi funamboli. Alla fine hai ceduto, su, era un argomento troppo denso di cose, di spunti, non si poteva. Sì, non si poteva, va bene. Poi sono adesso c'era tutta la polemica, riprendiamoci Spelacchio, no, riportiamolo adesso, nella sua terra. D'origine. Non rinforzare questa cosa. Insomma. Passiamo oltre. 9-8 minuti. I funamboli sono ritornati. Siamo qui. Siamo in diretta su Radio 24. Come sempre, ormai l'avete capito. Siamo in diretta fino alle 11. Oggi avremo tanti ospiti. Anche un ospite in studio che ci verrà a trovare. Una sorpresa. Un cantautore famoso. E insomma, oggi non vi faremo mancare nulla. Beh, diciamo che siamo subito prima di Natale. Quindi la puntata deve essere ricchissima. Ricca di doni. Allora, alle 9 minuti siamo qui. Vogliamo parlare in vari aspetti di sicurezza stradale, anche perché insomma è inutile negare, molte persone si sposteranno in questi giorni, a molte già lo stanno facendo, magari ci ascoltano proprio in viaggio verso le località di Natale, e allora ovviamente mi raccomando prudenza. Però Veronica, prima diamo i numeri. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta. E invece per mandarci dei WhatsApp o degli SMS il numero è 349-238-6666. E allora con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapel Alpino in regia, Alessandro Chiappini in regia qui da Roma con un albero di Natale sul capo. Un albero di Natale sul capo. Purtroppo qui a Roma la situazione va così. Non voglio approfondire. Va così. Non voglio approfondire. Il primo funambolo è un sindaco che ci raggiunge. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train. Allora, il sindaco di Predappio, che in passato avevamo chiamato varie volte, ricordate, era il sindaco dove è stato fatto un museo del Novecento, ci furono anche delle polemiche, sapete che Predappio è il luogo di nascita di Mussolini, questa volta però l'abbiamo chiamato per una vicenda diversa, è incappato in una disavventura. Giorgio Frassinetti, buongiorno, Partito Democratico. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno. Allora, è andata a una cena istituzionale e quando è stato fermato al controllo da carabinieri, credo, hanno trovato, insomma, che aveva bevuto un pochettino sopra il limite consentito. Hanno trovato con 0,7. 0,7. Il limite 0,5. Scatta il penale e a 0,8. 0,8. È una funzione amministrativa, non molto. Sì, certo. Cosa aveva bevuto, sindaco? Posso chiederglielo? Ma qualche bicchiere di vino. Sì. Non so, poi c'era anche mia moglie. Cioè, è stata la fortuna che altrimenti la mia moglie ce l'aveva già. Eravamo assieme. Sì, qualche bicchiere di vino. Quindi niente di. Mannaggia, però. Sindaco, però come la mettiamo? Sa, perché lei infatti si è difeso così dicendo andavo a una cena istituzionale. Ho capito, però purtroppo. No. No, come no? Sono cose che capitano a tutti, sì, no, certo. Soprattutto durante le feste, chi è che non beve? Cioè, quando vai a cena con tua moglie, cosa fai? Questa frase poteva essere doppiamente interpretata, no. Sindaco. Come andare a cena con una moglie senza bere almeno un po' di vino? No, non li faccio più male. No, lo so, però voglio dire, sa, si fanno tante campagne, si racconta della sicurezza stradale, eccetera. Lei da sindaco, ecco, al di là della polemica politica che è emersa, che chi se ne frega, sanzione penale, amministrativa. La cosa più grave, perché quel documento che è uscito da una caverna, che è diventato strumento di letame politico da parte di un fascista, che lui ha quindi la fotocopia di questa cosa, adesso io credo che farò un esposto in procura, quindi non è una cosa così. Perché qualcuno ha preso questo documento dalla... Certo, perché l'ha preso, perché l'ha divulgato. Ma sindaco, lei teme che questa faccenda si possa prestare a delle strumentalizzazioni per mettere in discussione in lei e tutte insomma le questioni che ci sono state anche rispetto appunto al museo? Ma io non lo so, io credo che bisogna fare dei falsi moralismi. È chiaro che tutti quanti, quando siamo fuori a cena, beviamo qualcosa, poi se non serve niente, se il limite è 0,5, tra l'altro, esatto, cosa è successo? Quindi gli hanno sospeso la patente? Per tre mesi, e come facciamo adesso? Si muoverà in altro modo. Mobilità dolce, mobilità dolce. Lo so, sindaco, però non so, vuole almeno chiedere scusa, dire non. Cioè, lei. No. Più che altro, sindaco, il pentimento nasce questo le voglio chiedere, dalla questione che la politica deve dare il buon esempio, no? Come si dice. Quindi lei si sente doppiamente pentito, contrito di quello che è successo, perché dice da sindaco non doveva capitarmi. È questa un po' la questione. Sicuramente se prendono Milan anche lui va sui giornali, anche lei, perché siamo personaggi pubblici, quindi tutto quanto va in espansione, perché l'ha preso un sindaco, un personaggio famoso, e ho chiesto scusa al mio consiglio comunale, ma la solidarietà di tutti i consiglieri, anche se fa il sindaco da 9 anni, non è che sono ma è chiaro che un episodio del genere mina la credibilità politica di una persona, ci mancherebbe. No. Voglio dire, per me questa cosa qui far uscire un verbale da un, non so da dove è uscito, insomma mina assolutamente, cioè insulta chi fa queste cose. Ma dica la verità, sindaco, lo ammetta, se non fosse uscito questo verbale lei non l'avrebbe detta questa cosa, non l'avrebbe resa pubblica. Io l'avevo detto con i miei assessori, lo sapevano i miei amici, no. Chiaro, non è che metto a attaccare i manifesti. Non mette i manifesti. Vabbè, lo so, però voglio quando dire. Quando fanno una multa di divieto di sosta, non è che vada a dire. Ma no, però è un po' diverso. Mi scusi, adesso non è che non vogliamo farle né la paternale né la morale, però un divieto di sosta è una cosa diversa che guidare con un tasso alcolemico sopra. Parcheggiare in un parcheggio per disabili è molto è grave. È molto più grave. È più simbolicamente è indubbiamente più grave, però qui il tema è legato alla sicurezza stradale, sindaco. Insomma. Il problema sostanzialmente di questa misura è la questione della sicurezza, non soltanto di chi guida, ma anche di quella degli altri. Quindi da sindaco, se vuole la polemica, può essere questa. No, lei ha ragione. Io quando mi sono messo in macchina mi sentivo assolutamente a posto. Okay. Certo, è chiaro. Dice forse i limiti sono bassi. Vabbè, sindaco, però questo è, insomma, mi sembra di capire che adesso lei vuole indagare il giallo di come sia uscito questo verbale. Questo è grave. Questo è grave. Lei sposta la questione. Dice, questa è la cosa più grave, quello che non le piace. Però ci può stare il fatto che una questione come questa, appunto, diventi fonte di strumentalizzazioni politiche per delegittimare un avversario che sappiamo, insomma, che è anche uso e costume classico ormai, per cui ci può stare. Che chiaramente lei ha fatto la muta, ha fatto bene a sanzionarsi. Pagherò, però il mio licenza da parte di tutto, poi dopo ricomincio, ma che tutto questo deve diventare un caso, no? Cioè non c'è nulla di penale. Questo è stato detto. È stato detto 0,8 scatta la sanzione penale, mentre lei era 0,7, quindi sanzione amministrativa, che è di quanto, giusto per capire, oltre alla sospensione della patente? 500 euro. Vabbè, Non è poco. Però sindaco ci penserà 2 o 3 volte la prossima volta prima di mettersi alla guida. Farà guidare mia moglie. Farà guidare sua moglie, che magari non aveva bevuto e quindi poteva guidare. Sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, Partito Democratico. In realtà, Veronica, devo dire che la vera notizia, secondo me, sulla sicurezza stradale, io questa non l'ho capita, sinceramente, perché nella finanziaria che stanno approvando, si sa, l'ultimo atto dell'anno, avevano inserito una norma, secondo me, giusta per tutelare la sicurezza soprattutto dei bambini, a partire da una vicenda tragica che ha coinvolto il prossimo funambolo, che è nostro ospite, una vicenda che lui ha girato, se volete, in una battaglia positiva, cioè da una tragedia cercare di dire ok, adesso mi impegno perché non accada più quello che è accaduto a me e a mio figlio. Sì. E il prossimo funambolo è Andrea Albanese, che salutiamo e ringraziamo, lo ritrovo con piacere. Buongiorno Albanese, grazie di essere qui. Buongiorno con noi. A voi, grazie. Allora, forse la ricorderete la vicenda, la devo ricordare, mi spiace Albanese, ma insomma, che ogni volta risuscitare un dolore, ma gli ascoltatori così inquadrano la situazione. Il 4 giugno 2013 lei dimentica in auto suo figlio Luca, siamo a Piacenza, 2 anni, e il figlio Luca rimane sotto il sole e muore. Lei stesso ritrova il figlio ormai privo di vita. Amnesia dissociativa, questo fu il motivo che spiegò tecnicamente come fosse possibile questa cosa. Peraltro neanche, cioè è rara, ma non è neanche l'unico caso. No, anzi, bene, abbiamo sentito parecchi di casi di questo tipo. Da allora Albanese, dica. No, volevo dire semplicemente che sono tanti i casi che finiscono bene, per fortuna. Certo. Nel senso che dalla mia esperienza che ho vissuto dopo la tragedia, ho ricevuto tantissime testimonianze di persone che mi raccontavano episodi simili al mio, ma finite bene. Cioè uno si, cioè, persone che rientravano in tempo nella macchina, o non c'erano quelle con cause anche climatiche per cui poi si è verificato, chiaro. Però ecco, la cosa che non abbiamo capito è questa, perché lei da allora, dopo ovviamente una grande fase di dolore, ha trasformato tutto questo in una battaglia, cioè dire, è il primo ispiratore di un disegno di legge per, e ce lo spieghi bene, per garantire la sicurezza dei bambini, perché non accada quel episodio, non accada una tragedia del genere. Qual sì, era? Ma guardi, il disegno di legge nasce da un concetto molto semplice, nelle nostre autovetture ormai ci sono allarmi per qualsiasi cosa, da quello più semplice della cintura di sicurezza a 1000 altri che ormai, diciamo così, ci aiutano sia nella guida che in altri aspetti collegati all'autovettura. Quindi da subito io mi sono chiesto come fosse possibile che nelle auto di oggi non ci fosse un allarme che, diciamo così, nel momento in cui la persona scende dall'auto e l'auto o il seggiolino rilevano la presenza di un bambino, ma la cosa può anche essere applicata a un animale volendo, non allarmi il conducente del fatto che c'è questa persona a bordo. Sì. È un banale allarme, a dire così, se uno scende e c'è dietro un bambino, una persona, suona. Qualora si verifichi. Ma in realtà la finanziaria, questa poi è stata la cosa che sembra abbastanza paradossale a sentirla, dopo aver inserito una serie di questioni inerenti alla sicurezza stradale, di tematiche, di emendamenti, è stato valutato che non fosse di competenza di questa finanziaria varare queste misure, quindi si è deciso di non far nulla, mi corregga se sbaglio. No, è così, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che la cosa è stata stralciata per estraneità del tema alla finanziaria. Ed in effetti io non conosco bene le regole parlamentari, ma ci può stare dal mio punto di vista. Sì, però Albanese, certo quello che ci può stare, scusi se la interrompo, certo che ci può stare, però mi viene da dire, ma quante cose che non c'entrano con la finanziaria, finanziamenti a saghe di paese, sì, alla saga della castagna, a dare i soldi al politico locale che deve portare avanti la fiera della carruba, e queste entrano, ecco. No, questo quindi, è vero, però mi consenta, la cosa più positiva secondo me è che finalmente si è arrivati alla consapevolezza di quanto sia frequente questo problema, del fatto che comunque, per esempio, negli ultimi 7 anni sono morti 7 bambini in Italia, se non vado errato. Quindi ormai è un problema che purtroppo non è più nemmeno così raro. Quindi la cosa è semplice da realizzare, perché ormai la tecnologia c'è. Io sono abituato a vedere la cosa positiva, nel senso che finalmente si è dimostrata la volontà politica e civile di approvare una legge di questo tipo. E sono convinto e spero che questa legislatura o la prossima che verrà possa terminare il lavoro. Sì, certo. No. Io, Albanese, quello che le volevo chiedere è, secondo lei, la motivazione, perché appunto, come diceva giustamente Alessandro, molto spesso nelle finanziarie deliberano rispetto a questioni che non sono appunto prettamente inerenti. Allora, in questo caso, su un argomento che in realtà non dovrebbe essere divisivo anche a livello partitico, perché è una questione veramente di sicurezza collettiva e di buon senso, secondo lei da cosa sono nate queste ritrosie nell'approvare delle misure di sicurezza stradale? Ma guardi, io spero che non ci siano ritrosie di merito, nel senso che è una legge a tutela dei bambini che per lo Stato è praticamente a costo zero, nel senso che se il dispositivo dovesse essere montato sui seggiolini la cosa sarebbe a carico delle aziende che producono i seggiolini, ma comunque sì, dal mio punto di vista sarebbe ulteriormente positivo, perché introdurrebbe tecnologia del 2017 in un settore che comunque di tecnologia per adesso non ne ha. Mm-hmm. Sì, forse i produttori di seggiolini, non lo so questo, se hanno in qualche modo fatto richieste o pressioni, perché bisognerebbe adeguare migliaia, sì, milioni di seggiolini. Il mercato comunque per fortuna si è mosso al di là della legge. Certo, cioè si trovano già dei dispositivi in commercio, sì. Chiaro. Però è diverso farlo per legge e imporlo per legge sarebbe una cosa molto diversa. La cosa più importante è perché serve una legge, perché il genitore non ammetterà mai di rischiare un incidente simile. Perché ecco, questo è un punto centrale, perché guardi, Albanese, sì, che ovviamente arrivano ancora messaggi a dire ma come, basta non essere distratti. Allora abbiamo spiegato tante volte, e non vorrei ritornare su questo dramma, che Albanese di fatto è stato dichiarato colpito da una amnesia dissociativa, che è un qualcosa che viene accertato. E che lo so che incredibilmente uno non ci vuole credere, ma incredibilmente porta a dire sì, io l'ho portato all'asilo il bambino, perché sì, invece no. Uno dei tabù più grossi che diciamo così rende difficoltosa la comprensione di questi incidenti è che si presuppone che l'amore che un genitore prova verso il proprio figlio possa proteggere da questo tipo di incidenti. In realtà l'amore non protegge il cervello. Certo, il cervello no, risponde a meccanismi biologici che purtroppo in momenti di particolare stress o per un blackout che non è nemmeno spiegato del tutto dalla comunità scientifica, possono verificarsi questi tipi di veri e propri blackout. Ma lei nell'opinione pubblica rileva una resistenza anche ad accettare questo? Cioè come se si volesse pensare sempre che non può accadere a noi e individuare un elemento di colpevolezza in coloro a cui accade? Ma guardi, la prima reazione è sempre questa. Dopodiché nel momento in cui le persone diciamo così tralasciano l'emotività e iniziano a ragionare veramente, iniziano a capire che la cosa può succedere, che non tutto quello che ci accade è sotto il nostro controllo, che purtroppo ci sono dei meccanismi biologici che intervengono nel cervello che portano questo tipo di incidenti, e poi c'è una componente di fortuna, sfortuna, che chiaramente conta. Certo, è chiaro. Tra l'altro, Albanese, vogliamo ricordare, lei allora ha fondato un gruppo Facebook, Mai Più Morti Come Luca. Quanti sono le persone che seguono questo gruppo? Sono circa 13.000. E noi speriamo davvero, cioè, intanto vedo il bicchiere mezzo pieno, e questa è una cosa positiva. Certo, si sperava, anche perché in finanziaria si diceva è entrato questo provvedimento, infatti era stato chiamato da tutti a dire ah, finalmente ce l'ha fatta, dopo due giorni è uscito perché è considerato non pertinente con i temi della finanziaria. Oltretutto sono state anche tante altre le questioni che non sono entrate, a partire per esempio dall'utilizzo del cellulare alla guida, che è un'altra questione molto controversa, perché c'è stato un incremento enorme dell'utilizzo, come tutti sappiamo, quasi più che altre cose che sono state sempre, no, come i limiti di velocità. E si voleva inserire addirittura una multa da 322 euro, 10 punti meno sulla patente, la sospensione immediata della patente, e tutto questo nemmeno è passato. Quindi sempre per questa questione dell'estraneità. Sì, io credo che effettivamente si sia valutata l'estraneità di queste materie alla alla competenza della manovra che riguarda il bilancio dello Stato. Ecco, spero che sia così e che quindi appena possibile il tema possa essere calendarizzato dalla Presidenza della Camera, a cui rivolgo un appello in questo senso, e che quindi questa legge possa essere discussa e spero approvata nel più breve tempo possibile. Anche perché, ripeto, è una cosa appunto che non c'entra destra, sinistra, centro, deve riguardare la vita dei nostri figli. Noi Andrea Albanese la ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie, grazie ovviamente, buona giornata. Allora, per rispondere a un SMS che dice: per favore mi potete dire se è vero che ci sarete a Natale? A Natale faremo uno speciale che andrà in onda il 24... credo, il 24 alle 22, il 24 dicembre alle 22, poi in replica anche il 25. Pensate che incubo. Faremo anche uno speciale il 31, sempre alle 22, andrà in replica, credo. Durante il cenone natalizio, il cenone di Capodanno, una tragedia proprio, lì, completamente, sul groppone. C'è Giuseppe dalla provincia di Taranto, ecco se ci arriviamo per esempio a Natale, Giuseppe dalla provincia di Taranto. Buongiorno Giuseppe, eccoci. Buongiorno Funamboli. Sì. Auguri di serene festività ad entrambi. Altrettanto. A Manera no. Grazie. No, a Manera no. Alessandro, io ritorno su quello che è stato il vostro colloquio col sindaco di Predappio. Sono rimasto colpito dalle argomentazioni usate dal sindaco per cercare di sminuire quella che in ogni caso rimane una sua violazione di una norma. Che possa aver bevuto qualche bicchiere di vino non è quello che conta. E la norma stabilisce un limite, chiaro, oltre il quale si incappa nella sanzione. Ma infatti, cioè, devo dire che molti ci hanno scritto, Giuseppe, un po' come lei, che sono anche un po' infastiditi perché magari un po' rideva, infastidito. Questo perché comunque è un comportamento che non va bene, ecco. Però non vogliamo neanche mettere al muro e sparare in fronte a nessuno. Volevo criticare solo, diciamo, quell'atteggiamento di spocchiosa superiorità che spesso è presente in rappresentanti politici del Partito Democratico. E consentimi questa adesso non mettiamo sulla politica anche. Come se le norme di legge valgano solo per gli altri cittadini. Loro sono superiori. Vabbè, ma Giuseppe, adesso, adesso non lo so. Bene. Non la metterei tanto proprio sul PD. Un rappresentante istituzionale, quale è un sindaco. Va bene, comunque. Vi ringrazio di grazie Giuseppe dalla provincia grazie di Taranto. Grazie a lei, Giuseppe. Allora, tra poco, dopo la pubblicità, parleremo di quella che qualcuno ha definito gogna sul web, a Roma. Peraltro c'è stata subito una retromarcia, la Giunta Raggi dice non la faremo più questa gogna. Allora, è un video che gira su YouTube, ieri Carlo Bonini ha scritto una pagina gustosissima su Repubblica di coloro che hanno oltraggiato i vigili urbani e per non incappare in un processo i vigili urbani gli offrono che cosa? Beh, vai su YouTube, mettiti lì e fai un bel video di scuse. Cospargiti. Con riferimento al procedimento penale a mio carico per oltraggio a pubblico ufficiale, esprimo profondo rincrescimento per il comportamento tenuto nelle vicende per i quali sono indagato. Per tale motivo formulo al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale le mie più sentite scuse per le cioè questi sono cittadini che per evitare il processo si mettono davanti alla telecamera e dicono chiediamo scuse, tra l'altro con una convinzione proprio, mi sembrava molto convinto questo cittadino, no? E qualcuno ha detto ma che è la gogna? No, ma l'ha ripreso tutti, oggi anche Merlo ne scrive su Repubblica nuovamente, perché è una questione che evidentemente ha toccato molto. Ha toccato molto. Devo dire che la Giunta Raggi vuole fare marcia indietro, cioè dopo la denuncia di Repubblica la Raggi dice questa cosa apparteneva al vecchio comandante dei vigili urbani e la vogliamo togliere immediatamente. Ci si è posto lo scrupolo che potesse essere lievemente inopportuna la cosa. Inopportuna, lo so. Che ne pensate? 800 24 0024, anche perché tra poco avremo ospite un funambolo, uno che questa, tra virgolette, gogna l'ha accettata, cioè pur di non andare a processo, si è messo lì e ha chiesto scusa al corpo municipale di Roma Capitale. La genuflessione al posto della sanzione. Questo è, tra poco. I funamboli. Buongiorno Funamboli, ma il sindaco ha brindato con un bevo e me ne frego o con un credere, obbedire e combattere? Faccia il bravo, che il sindaco peraltro è del PD e ha sempre difeso il museo anche legato al Novecento a Mussolini, ma nel senso di non certo di celebrazioni mussoliniane. Memoria storica. Anzi, proprio il contrario. Non cancellare il passato. Va bene. Allora sì. La gogna, ma è gogna poi? Cioè, nel senso, io mi chiedo se uno offende e rischia un processo per oltraggio pubblico ufficiale e invece di andare a questo processo decide liberamente, nel senso che nessuno lo obbliga, di chiedere scusa e così annullare le proprie pendenze. Ecco, sulla è gogna. Parola liberamente ne possiamo discutere un po'. Liberamente, nel senso, se lo vuoi fare, l'alternativa è il processo. Quindi non è che dici proprio, sai, stamattina mi sono alzato e ho pensato, diciamo che c'è ma stato capito, un po'. Ma il processo, se uno oltraggia, è automatico, cioè qui ti danno un'ultima opportunità. La no? domanda è che tipo di sanzione è, cioè possono i vigili, può un corpo dello Stato decidere che un cittadino debba pubblicamente umiliarsi, mortificarsi, mettersi sul web e rimanerci per 2 settimane senza possibilità di togliere il video. Però c'è da dire che uno appunto lo fa. Infatti c'è tra l'altro una donna che si è rifiutata, ha detto io piuttosto vado a processo, cioè una libera scelta, dice no, io questa cosa non la faccio, processatemi se ho oltraggiato secondo voi le forze dell'ordine. Comunque non le forze dell'ordine, in questo caso i vigili urbani. Emiliano Bono, buongiorno, consigliere municipio 3 di Roma, buongiorno Bono. Buongiorno. Lei l'ha fatto invece? Io sì, sì, c'è il video. C'è il video, anzi l'ho anche lasciato oltre, io non mi sono preoccupato di toglierlo. Ecco, cioè, ma l'ha fatto, nel senso che gli è arrivata a casa una lettera in cui diceva lei può evitare il processo se fa un video di scuse in cui dice questo. No, questo. No, diciamo che no, tra noi c'è stato un accordo tra... ovviamente è intervenuto anche il mio legale, ovviamente allora partiamo dal presupposto che io sono un personaggio tra virgolette pubblico nel mio piccolo da consigliere municipale, sono una persona che nel ruolo che svolgo sono eletto a suffragio universale dai cittadini. Da che partito? Di che partito è? Fratelli d'Italia. E quindi evidentemente essendo eletto ai cittadini li devo rappresentare, ma ho la responsabilità anche di chiedere scusa nel momento in cui può accadere qualcosa. Ma che aveva detto al pizzardone? Infatti, qual era stato l'episodio? Guardate, allora intanto non ricordo esattamente perché parliamo intorno al 2010-2011, se non vado errato, 2009, una roba del genere, non ricordo esattamente di quando fosse, che poi invece è stato affrontato l'altro anno nel 2016, ok? Quindi sì. Il video è del 2016, dove a me vi ho sentito e dicevate 15 giorni, no, a me c'è stato l'obbligo per un mese. Vabbè. Tra l'altro il mio video è stato inserito anche nel sito del Comune di Roma. È stato un successo proprio. Sì, no, l'hanno inserito, penso volutamente, giustamente. Vabbè, ma chi era successo? Cioè, aveva una lite cittadina? Sì, un diverbio? Mi hanno fermato, c'è stato un bel diverbio, sono andato assolutamente oltre nei termini, nelle offese, per cui... È scattato l'oltraggio. L'oltraggio, poi tra gli avvocati, l'avvocatura dei vigili, no? E il mio legale che è arrivato a questo accordo, che ripeto, io sono d'accordissimo che io debba chiedere scusa anche pubblicamente, anche in gogna mediatica, essendo io un personaggio pubblico, devo anche dare le scuse nel momento in cui c'è un errore. Ma infatti non forse il suo caso è un po' diverso. Non sono d'accordo per il cittadino normale, perché un cittadino normale non può essere sottoposto a gogna mediatica, perché possono essere padri o madri di famiglia, possono avere dei figli che in qualche modo possono percepire, ormai internet sta in mano a tutti e quindi possono anche vedere il proprio genitore lì, messo lì. Ma secondo lei è proprio una gogna? Cioè lei lo definisce una gogna? Per me è una roba pesante per un cittadino normale, ma non perché io non lo sia, ma ripeto, essendo votato dai cittadini è giusto che io chieda scusa. Anzi, io metterei la gogna mediatica anche per qualche politico che guadagna un po' più di me, ma al di là della che facciamo in Cina? Li mettiamo come in Cina in ginocchio, poi gli spariamo anche un colpo alla nuca. No, dai, non è che... Però voglio dire, lei dice io mi scusavo come funzione pubblica, quindi per il mio ruolo principalmente, più che come cittadino. Io per ho sempre pensato che quel discorso fosse stato un accordo tra me e loro, in quanto, ripeto, certo, in quanto funzionario pubblico, chiaro. Esatto, no, oltretutto la Polizia di Roma Capitale, io ci lavoro, essendo la polizia proprio del Comune di Roma, io sono al Comune di Roma, per cui lo ritenevo addirittura doveroso, forse l'avrei fatta a prescindere. Cittadino normale potrebbe, ecco, tranquillamente mandare una lettera di scuse. Ma io le posso fare una domanda? Secondo lei qual è il senso di far fare una cosa del genere a un cittadino normale? Cioè, che tipo di vantaggio, come ne beneficia il corpo dei vigili? Che cos'è? Una specie di... cioè, si mortifica la persona e in questo modo è un plauso, un legittimare i vigili urbani? Che cos'è, secondo lei? Onestamente no, con il cittadino non vedo nessun vantaggio. Le dirò di più, il vantaggio non lo vedo né nel corpo dei vigili né tantomeno da parte del cittadino. Non neanche vedo io lo dirò. Ma l'unico vantaggio è che non si ingolfano con i procedimenti per oltraggio, che mi sembrano un po', per carità. Beh, si poteva pensare delle alternative, no? Non si ingolfano i tribunali con questo. L'unica, sì, l'unica, no, per carità, però è ovvio che poi bisogna vedere da caso a caso. Per arrivare a oltraggio significa, insomma, che due insulti fatti bene sono stati detti. Evidentemente, però la gogna mediatica per il cittadino non sono d'accordo. Ma infatti è stata tolta, no, sarà contento che verrà tolta. Adesso non entri in una questione di diatriba politica, adesso, al di là che lei è Fratelli d'Italia, la giunta no, 5 no, Stelle. Guarda, io non sto parlando in carino, non ho fatto, no, dico, quindi sarà contento comunque che adesso non ci sarà, no, più la Raggi, no, se viene tolto dalla Raggi sono assolutamente contento, ma io, il mio riferimento era che io metterei la gogna mediatica, perché a fare i belli sempre, ma quando, insomma, qui si gioca sulla vita dei cittadini tutti, qualcuno, qualche politico e politicante dovrebbe andare pubblicamente a chiedere scusa al popolo italiano. Vabbè, insomma, prendiamo questo spunto come una proposta. Io parlo di gente di centrodestra e centrosinistra, ma sì, non no, nessuno, chi sbaglia, chi sbaglia. No, ma c'è... Io mi sono assunto la mia responsabilità di andare, ho lasciato addirittura il video perché non mi devo vergognare, perché possiamo sbagliare tutti nella vita, ma come sbagliamo è giusto chiedere scusa. Certo, soprattutto no, per me, che vengo votato dai cittadini. È chiarissimo. Il quesito è se a questo punto debba accadere, qualcuno si chiedeva anche al contrario, quindi quando sbagliano i vigili, no? Cioè, resta celebre il caso del Capodanno, no? Con 4 vigili su 5 in malattia. Uno dice, vabbè, ma questa cosa allora deve accadere anche al contrario, bello, cioè, che c'è una reciprocità. È bello che in quel caso hanno detto che non hanno sbagliato, anzi esatto, nessuno è stato quasi condannato. Arriva un messaggio, buongiorno cari, a Singapore, ed è vero, a Singapore contro il crimine sono durissimi, in queste situazioni spesso pubblicano la foto sul giornale dell'autore del reato e poi semplicemente lo mettono magari una settimana a pulire i pavimenti in un supermercato con un cartello appeso con su c'è scritto il motivo lo so, e infatti in Cina li metto in ginocchio pistolettata la facevi nuca, l'esempio poc'anzi, diciamo, insomma, va bene, ringraziamo Emiliano Bono, dai, c'è chi c'è? Gabriele da Roma, buongiorno Gabriele. Sì, buongiorno ragazzi, ecco, buongiorno. Che dice? Io sono veramente disgustato per questa modalità, perché appunto non si chiedono scuse ma non hanno nessuna caratteristica delle scuse vere, dettate da spontaneità. No, spontanee no, sono un accordo stragiudiziale, mettiamola così, un accordo stragiudiziale. Sì, non lo so, lo vedo funzionare appunto come dicevate voi, di evitare magari un intasamento dei processi eccetera, ma mi sembra veramente una funzione solamente meramente pragmatica, ma credo che derivi proprio dalla considerazione che ha un sistema dei cittadini visti più che altro come sudditi da umiliare in casi di appunto di espressioni come però Gabriele, se uno non vuole va a processo, cioè non è che adesso, se poi ha detto qualcosa di troppo a un vigile ed è accusato di oltraggio, non lo so, io non è, anche a me dà un po' fastidio l'idea, è creativa, è una forma creativa. No, infatti, creativa. È un abuso di estro, no, pensavo. Uno un dice, abuso che, di estro. Cosa mi invento? Cosa come, mi invento? No? Le scuse pubbliche. Come alternativa. E poi uno si chiede anche, ma c'è un problema di autostima nel corpo dei vigili? Cioè attraverso questi video dici, rafforzo la mia autostima come corpo dello Stato. Un po' sì. Francesco da Brescia. Francesco, buongiorno. Grazie, Gabriele. Eccoci, anche noi siamo qua. Prego. Benissimo. Prima osservazione, se dovessimo come a Singapore, al contrario, mettere i vigili a pulire i supermercati quando peccano di arroganza, avremmo i supermercati che potrebbero diventare asettici. Vabbè. dopo la mia osservazione che avevo lasciato in messaggio. È diventata una lotta tra categorie, cittadini contro vigili urbani. No, non è, dai. E poi? No, che c'è? Accomuna tutte le città d'Italia, tutti i paesi, non c'è differenza, non c'è Roma che tenga piuttosto che Milano, sono tutti così. Tutti così. Arroganti, che hanno sempre ragione loro, io avevo detto nel messaggio. Gli hanno messo in testa un cappello che era da ferroviere e loro hanno creduto che gli avessero dato i gradi da generale. Vabbè, dai, adesso Francesco, però sono lì anche per tenere... Cioè, lei lo vede nel traffico la gente come è indisciplinata, no? Forse qualcosa sbaglia anche la gente, i vigili, insomma... Sono lì. Salutiamo tutti i vigili d'Italia. Lo stavo aspettando, stavo facendo meno 5, meno 4. E chi ce l'ha con i vigili, ricordate che ci sono sempre gli ausiliari del traffico. Leonardo Manera, che hai qualcosa contro gli ausiliari del traffico? Diciamo che fra le due categorie preferisco i vigili. Preferisci i vigili? Io ho detto tutto. Perché quelli, gli ausiliari del traffico, non hanno neanche il cappello da ferroviere, ambirebbero ad avere la divisa. Ma godono nel mettere la multa. Maledetti. Salutiamo tutti gli ausiliari del traffico d'Italia. Mamma mia, ragazzi, qui ogni volta sudore alla fronte. È una vita altro che funambolo, è proprio una vita. È una vita quasi da carcerato. Inilico. Quasi da carcerato. Il traffico, per l'appunto, e poi entriamo. I funamboli. Fanno bene a fargli fare la gogna mediatica, fanno strabene, che si vergognino, e se si vede che non sono convinti gli sta bene il doppio. È così, protestate pure, ma è così. Allora, i nostri ascoltatori, Manera, tu cosa pensi di questa gogna mediatica? Penso che siete tutti fuori strada, perché non sentite lo spirito natalizio, tutti cattivi, e se lo merita, no, è Natale, tra tre giorni è Natale. Oh, mamma mia, fai il buonismo del Natale. Sì, faccio il buonismo del Natale, guarda. Mamma mia. Anche il buonismo del Natale mi mancava. Poi invece . Il 27 dicembre, tu, la scala mobile, non va, ma se tu ogni giorno posti in una scala mobile che chissà cosa ti ha fatto. Questo è vero. Lì, io non mi spiego come una scala mobile possa funzionare due giorni sì e due giorni no, questo per tutto l'anno. Dobbiamo fare l'inchiesta con il report dal sindaco. La verità Sala adesso è che noi abbiamo chiamato il comune di Milano e abbiamo detto di lasciarla così, altrimenti non finiamo l'anno di funamboli, capito? Sì. Quindi adesso sta così per questo motivo. Io voglio rilanciare il buonismo di Natale, almeno per tre giorni facciamo questa cosa, la pace sociale. 24, 25, 26, 26 23, dal 22 al 25, dal 25 poi si ricomincia. Sera. Già si può litigare nel tardo pomeriggio di 25. Col nonno, magari. Santo Stefano, niente? Santo Stefano passa in silenzio, non esiste Santo Stefano. Santo Stefano protomartire. Il povero Santo Stefano protomartire. Infatti volevo dedicare proprio una cosa proprio a questi giorni prenatalizi alle persone che cucinano per tutti gli altri a Natale, no? Quelli che si danno da fare per cucinare e poi magari vengono anche criticate pesantemente. Da te, magari. No, per esempio a mia madre, ecco. Mia madre e la cucina, ecco, erano un binomio indissolubile perché a Natale cucinava sempre mia madre e non andavamo mai al ristorante. Invece quelle poche volte che andavamo al ristorante durante l'anno avevo sempre l'impressione che lei avrebbe preferito portarsi il cibo da casa, qualcosa che aveva cucinato lei, sarebbe stata più tranquilla. E quando eravamo al ristorante mio padre diceva sempre è meglio quello che fa la mamma, ottenendo così due risultati, quello di gratificare momentaneamente mia madre, ma soprattutto quello di non andare un'altra volta al ristorante, cioè di risparmiare. Andare al ristorante per mio padre era un investimento per non doverci poi andare altre volte in futuro. Mia madre invece non voleva andare al ristorante, diceva che nei ristoranti non sapeva quello che ci mettevano dentro. Se avesse potuto per fargli spaghetti sarebbe partita lei dalla coltivazione del grano. Al ristorante andavamo solo quando era obbligatorio, per esempio quando ho fatto la prima comunione. E quel giorno mia madre era dispiaciuta perché non aveva impastato lei l'ostia. Io da bambino quando andavo al ristorante preferivo le cose grasse, piene di schifezza. Alla fine ho capito perché i miei genitori non volevano che le mangiassi, perché mi facevano vomitare in macchina. Quella era la vera ragione. A mio padre non interessava del mio stomaco, dei miei organi interni, interessava della sua macchina. Perciò in questo era un vero padre italiano. Io però volevo andare al ristorante perché mi piaceva spiare le cucine, guardare i cuochi, sia i professionisti che gli apprendisti, quelli assunti con un contratto cuoco-co. Il cuoco in un ristorante è Dio, infatti è vestito di bianco. La differenza è che quando il cuoco cucina qualcosa di veramente buono si può andare in cucina a fargli complimenti. Con Dio no, anche perché non si sa dov'è la cucina. Io vorrei farlo anche con Dio. Quando Dio fa una cosa bella, anche solo il giorno di Natale, vorrei andare da Lui, stringergli la mano, offrirgli un caffè, che tanto su ce l'hanno. Sono anni che ci fanno vedere che in paradiso bevono il caffè. Forse è per questo che sulla terra le cose non vanno più bene, perché su bevono troppo caffè, sono troppo nervosi. Il cuoco mette nei suoi piatti tutti gli ingredienti e poi guarda che effetto fanno sui suoi clienti. Dio, invece, mette nella vita tutti gli ingredienti e poi guarda che effetto fanno sulle persone. Qualcuno ce la fa a resistere, qualcun altro invece passa tutta la vita con dentro un ingrediente diverso, a volte senza neanche sapere perché. Ti guardi intorno e ti senti diverso. Ti guardi intorno e quelli che vedi ti sembrano mostri. O forse per loro il mostro sei tu. Ma io li ho sognati di notte, i mostri che mi inseguivano. Ho sognato i tronisti di Maria De Filippi che volevano insegnarmi congiuntivi. Ho sognato l'ombra di Carlo Conti che d'estate mi inseguiva in vacanza per abbronzarsi al posto mio. Ho sognato gli ultras che si accoltellavano anche per le amichevoli precampionato. Ho sognato il presidente degli Stati Uniti con un parrucchino che ti viene voglia di rimpiangere Cesare Ragazzi. E ho sognato che nevicava su tutta Italia, ma non era neve. Era Marzullo che scuoteva la testa. Si può partire per scappare da tutto questo, oppure si può partire perché semplicemente è Natale e si vuole fare un viaggio senza una meta precisa, ma solo perché hai bisogno di viaggiare e vai avanti fino a quando dentro di te senti che finalmente ti puoi fermare in una terra promessa, forse in un mondo migliore. Buon Natale a tutti. Un grande pezzo rovinato dalla neve di Marzullo, sinceramente. Un sussulto lo abbiamo avuto tutti. Un'immagine francamente disgustosa. Ma non è vero. Poco. Ma come non è vero? Qualora voleste smettere di mangiare durante le feste natalizie per aver ecceduto, dopo aver ecceduto, pensate a queste immagini. La neve che scende dalla testa di Marzullo. E quando scuote la testa un po' di forfora ce l'avrà anche lui, no? Vabbè, ma non devi anche indugiare. No, infatti, questa ce la spiega. Veronica, dammi un rapido consiglio, per favore. Allora, una donna conosciuta da pochissimo mi ha regalato un pigiama con tutti gli animaletti sopra di pile. Che segnale è questo? Qui veramente ci confonde. Diciamo Veronica, che così dolce. Sulle prime verrebbe da pensare ad una donna che ha in mente di costruire qualcosa con te. Sulle seconde? No. È meglio non frequentarla più, dici. Il pigiama con gli animali. Ma scusami, c'è una situazione comunque di così no, di No, con questa determinazione vuol dire tu non pensi di piacere a costei? Vabbè, no, sì, magari sì, no, mi chiedevo cosa una donna che regala un uomo un pigiama già con gli orsettini senza avere rapporti con... So che è un tema fondamentale per funamboli. Devo dire che secondo me dalle Alpi alle Madonie alle si stanno interrogando, ma anche in tutto il mondo, visto che ci ascoltano da tutto il comunque, mondo. Comunque, Leo, secondo me è un progetto di costruzione, ecco, diciamo che lei non vuole usarti per una notte via, non ti ha regalato così un kit da utilizzare in una notte breve, intensa per un'avventura. Io direi che invece questa potrebbe essere considerata una vera e propria polemica. Sterile. Prima però sentiamo Antonio non da c'è Milano. Polemica, però. No, infatti. Antonio, buongiorno. Pronto, no, buongiorno. È perché volevo lanciare la rubrica, ma poi mi è saltata. Antonio, buongiorno. Buongiorno, grande Milan, sì. Scusa se mi permetto. La squadra, sì, certo, la squadra più bella del mondo, si sa. Giusto. Io volevo soltanto fare questa osservazione, nel senso, se si fa un processo ci deve essere un giudice che ascolta l'accusa, ascolta la difesa ed emette una sentenza. Se invece c'è questa gogna mediatica, manca il processo e quindi o è un'assunzione di colpevolezza e allora si potrebbe già, come si dice, potrebbero già trarre delle conclusioni, nel senso... Ma non è che c'è, cioè, è proprio... Io adesso prima l'ho detto come esempio forse un po' forzato. È un accordo stragiudiziale. Cioè a volte si fanno degli accordi per evitare appunto il processo. È una sorta di accordo. Cioè dire, allora vuoi andare a fare questo processo oppure ti diamo questa opportunità? In genere è, che ne so, ci mettiamo a posto, transiamo economicamente qualcosa. In questo caso, e lì la creatività a cui faceva riferimento Veronica Gentili è chiedi, fai una bella video di scuse al corpo municipalizzato e noi facciamo finta di esserci dimenticati dell'oltraggio. Cioè uno non è che, non lo so, ma non lo giustifico, non lo sto giustificando perché è strano, è particolare. Supponiamo che ne acquisti prestigio il corpo dei vigili. Supponiamo questo così. E ti evitiamo il processo. Però Antonio non le piace l'idea. È strano, tutto strano mi sembra. Antonio non è molto d'accordo. Va bene, volete allora fare una polemica sterile? Potete farlo nella seconda ora dei Funamboli. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Ieri c'erano ancora due che hanno impegnato l'incrocio mentre io dovevo attraversare. Io così gli facevo: bravo, bravo, ma perché bravo, litighi anche? Complimenti! Ma che bravo! Sei bravo! No, tu sei molto, molto bravo! E devi farlo in maniera proprio plateale. Bravo, bravo! Ma tu litighi proprio, quindi, che prima o poi qualcuno scenderà e il giorno dopo ci racconteranno e diremo: ci dispiace, la trasmissione purtroppo. No. Ricorda. Te l'ho detto qual è la soluzione? Quella del mio amico: tenersi una mazza da baseball. Ancora sta mazza da baseball. Non è quella la soluzione. Però ragazzi, potrò dire bravo polemicamente a uno che ha fatto una cazzata, no? Ma niente, gli è presa la mano. Potrò dire bravo uno che fa. Stai calmo. Questo è. Va bene, dai, la prima ora dei Funamboli finisce qui. Nella seconda ora avremo tante sorprese e anche un ingresso in studio. Sono molto felice perché è venuto a trovarci un grande cantautore, Franco Mussida, fondatore della premiata Forneria Marconi, e tanto altro ha fatto nella vita. Ci racconterà che sta lavorando molto anche nelle carceri con la musica. Donna, hai problemi di herpes labiale che si presenta regolarmente prima di ogni appuntamento importante? Allora non ricorrere a pomate e cerotti che hanno solo un effetto limitato. Acquista invece le labbra finte Bellugi, le labbra in similpelle da applicare sopra le tue e che donano anche una pronuncia esotica. Sì, oggi anche io uso labbra finte Bellugi. Labbra finte Bellugi, perché l'amore viene prima dell'herpes. I Funamboli. Allora, siamo qui, sono le 10:07, è la seconda ora dei Funamboli, siamo in diretta fino alle 11 ed è l'ultima puntata pre-natalizia, ecco, mettiamola così. Iniziamo così, cos'è? Non ho ancora capito se questa cosa ti causa felicità o un po' di amarezza perché non verrai più in radio per un po' di giorni. Ma no, a parte che non vi abbandoneremo neanche una giornata, neanche mezza giornata. Era un pianto, ma mica piangevo a nome loro, piangevo a nome mio infatti. No, infatti, ci sarà il meglio di durante tutta la pausa natalizia. Un po' di dispiacere, voi uomini senza cuore non soffrirete un po' questo la mancanza. Programma secondo me ha tantissima SIA, il meglio di, perché lo mandano quasi tutte le reti. Allora. Chissà chi ha inventato il format? Il meglio di. Va bene, allora, adesso è il momento, come sempre a quest'ora, di introdurre il funambolo del giorno. Oggi è un ragazzo che si è messo in mente di fare una cosa per cui io non lo seguirei neanche su Marte. Ecco, dico, ho fatto la battuta. Ma perché? No, Leo, ti rispondo, no, non credo che sentirò la mancanza, starò bene durante queste feste. Ho fatto la battuta perché Mattia Barbarossa, 16 anni, che è con noi e che salutiamo. Ciao Mattia, ti chiami come mio figlio. Salve. E quindi hai già 25.000 punti guadagnati, hai 16 anni e sei il più giovane partecipante di sempre a una simulazione della Mars Society, e cioè che farai l'anno prossimo nello Utah? Beh, passeggerò per 2 settimane simulando una missione su Marte umana del 2030, si spera, sì. Testando uno strumento scientifico finalizzato alla ricerca della vita su Marte. Ma che bello. La fate nello Utah questo? Nello Utah. Sì. Nel deserto, perché lì? Perché lo Utah si presta, cioè sembra un altro pianeta. E come dice il detto, gente allegra c'è lo Utah. No, vabbè. No, diciamo che è un ambiente molto simile a quello di Marte, quindi è ideale per riprodurre una missione. No, ma è vero, ci sono dei deserti straordinari, voglio dire, viene fatta all'aperto oppure, cioè spiegaci un po', all'interno di un laboratorio e come soprattutto sei riuscito ad arrivare a questo tipo di selezione e partecipare. Poi quanti siete anche? Sì, allora la simulazione viene fatta nel pieno del deserto, ovvero sia è stato costruito un habitat che riproduce quello di un habitat per delle future missioni umane su Marte, e che è stato piazzato nel mezzo del deserto dello Utah, a più di 3 ore di distanza dalla comunità più vicina. con strumentazione scientifica, con 7 posti letto e tutto quello che è necessario, un generatore, una riserva d'acqua, una serra per alimentare la missione, e ogni anno vengono organizzate delle spedizioni di ricerca verso questo habitat, dove generalmente i ricercatori testano loro tecnologie, strumenti o studi sugli equipaggi per capire meglio come affrontare le prossime missioni. Fantastico, ma perché ti affascina questo mondo? Tu hai vinto un premio per partecipare, hai vinto un riconoscimento per essere selezionato a partecipare a questa esperienza. Sì, in realtà io sono un patito dell'esplorazione in generale, di tutti i tipi, da quella navale di James Cook del 700 fino a quella che attualmente ci stai coinvolgendo, cioè dopo la corsa allo spazio adesso stiamo rinascendo verso una corsa di nuovo sulla Luna, come di recente la notizia di Trump, e poi verso Marte. Quindi l'esplorazione è quello che è nell'animo umano, e sono fortemente emozionato di poter far parte di una tale simulazione. C'è scritto Matteo, tu non lo conosci, Matteo è un grande ascoltatore da anni di Radio 24, è nostro ascoltatore, in genere ci seguiva da Columbus nell'Ohio, e ci dice che è posto fantastico, lo aiuta. Però mi incuriosisce, cioè non c'è la riproduzione dell'atmosfera ovviamente di Marte, cioè la fate all'aperto, no? E quindi questo come va ricreato? Indossiamo dei caschi che hanno circa 2 ore di ossigeno, dopo le quali tendenzialmente non si dovrebbe sopravvivere, però indossiamo delle tute molto ingombranti, pressurizzate, dei caschi, quindi viene riprodotto quello che è l'impedimento dovuto proprio alle attività extraveicolari, quindi da questo punto di vista è simile. Inoltre ci sono formazioni geologiche sedimentari che riproducono in modo alquanto verosimile, diciamo per un buon 75% quello che è Marte. L'altro giorno Nespoli diceva, l'astronauta, che insomma adesso tra poco ci sarà il turismo spaziale. Non il nostro Lorenzo. Anche io lo stavo per Paolo fare. Paolo Nespoli appena ci sceso. Ci pensi da solo. Esiste secondo te questa prospettiva insomma di viaggi interspaziali, addirittura poi di arrivare su Marte? Sì, assolutamente. Noi viviamo in un'epoca storica dove è in dubbio che stiamo facendo del male alla Terra, e sicuramente se l'umanità vorrà andare avanti dovremmo spostarci verso altri pianeti, anche perché le risorse che ci sono nello spazio potrebbero tranquillamente alimentare la nostra civiltà. Inoltre sono nate molte compagnie che proprio vendono biglietti viaggi, verso... Sì, certo, è che adesso costano moltissimo. Paolo Nespoli proprio ha detto mi auguro che si abbassino i prezzi e che diventi un mercato. Sì, è come è stato il mercato dei primi voli. I primi voli effettuati con gli aerei costavano tantissimo, poche persone potevano permetterseli. E quindi poi con l'evoluzione della tecnologia siamo arrivati a un abbattimento dei costi. Mattia, colpisce moltissimo la tua giovane età, giovane è un eufemismo, cioè tu diciamo che ti sei addentrato in questa esperienza, tra l'altro mi sembra con un alto livello di consapevolezza, molto molto presto. Io non so se gli altri partecipanti hanno più o meno un'età simile o sono molto più grandi. No, in realtà gli altri partecipanti sono tutti maggiori di 20 anni e sono in genere ricercatori, sono il primo a compiere questa spedizione da non ricercatore. Voglio dire, però sottolineare l'età tua, ripeto, 16 anni, secondo me appunto è intelligente, cioè in un'epoca in cui si dice i giovani sono un po' smidollati, non hanno ambizioni, non hanno sogni, non coltivano delle missioni, delle passioni, ma tu ragazzi 16 anni, ma sentite con che entusiasmo si butta in un'avventura. Ma poi davvero con che consapevolezza, cioè non con l'idea di vado a fare questa avventura, oh yeah, ma vado con una consapevolezza, una conoscenza del tema. Questo colpisce molto. Assolutamente sì. Tu resti per altre cose un sedicenne oppure sei già un adulto in tutto, diciamo? Beh, in gran parte possiamo dire, ma quello che ho notato è che la comunità di ragazzi che sono interessati a questi argomenti non è scarna quanto pensassi. No, ma è chiaro, ma infatti a noi fa piacere averti dato voce. Mattia, ti mandiamo un grosso abbraccio, non so se il contratto lo prevede, ma se l'anno prossimo quando sarai nello Utah potrai fare dei collegamenti con noi ci prendiamo già l'appunto. Subito, ma mi chiedevano, faranno un reality ovviamente, perché li fanno tutto, scusami. Così assolutamente no. Gente su Marte, ti pare che non si fa? Su Marte. Mattia Barbarossa, ti ringraziamo davvero per essere stato con noi. Arriva un messaggio abbastanza inquietante, anche se io lo vivo con tranquillità. Milan, Veronica, Leo, è vero che Radio 24 potrebbe fallire e voi rimanete disoccupati? Noi vi vogliamo. Ma so. Nel senso, a casa noi, lui bisogna intendeva. Vedere chi noi è questo noi. A casa. E noi potremmo venire a casa, sì, no, perché no, c'è comunque detto. Un pacchetto che può, con cui si possono prendere tutti e tre i personaggi a casa e affittarli no, per tutto no, no, tempo. Ha detto siete bravi, vogliamo, ma non lo so questa notizia dove l'ha letta. No, no, non falliremo, tranquillo, non falliremo, caro ascoltatore. Beh, passa non si buon sa Natale. Mai, dai. Ascoltatore, se te l'ha detto Milan, stai tra due cuscini. Radio 24 è come l'amore e Leonardo Manera lo sa, l'amore è destinato a finire sempre e comunque. Quindi viva direi l'allegria. Che così abbiamo sancito il fallimento, abbiamo chiuso proprio la serranda e però, via. Però dopo il traffico entreremo subito con una presenza che io ho già anticipato in studio, ci è venuto a trovare un grandissimo della musica. Vabbè, prima oggi l'ho detto chi canta, è, adesso non lo dico. Ci si canta. Non, smettila, non lo dico più chi è, lo diciamo tra poco. I funamboli. Insomma, un virtuoso della chitarra lo è sempre stato, Franco Mussida, buongiorno. Buongiorno, grazie buongiorno. Di avermi ospitato in questa giornata dove tutti sono matti dalle gare. Perché tutti perché matti dalle gare? Perché parcheggiano in terza, in quarta ecco, fila, in la quinta. Polemica sterile, siamo partiti con una polemica, no, noi abbiamo le poi, polemiche sterili. Poi è cominciata malissimo, nel senso che già subito pessimismo a manetta, nel senso che la terra l'abbiamo già data per persa. Ecco. Cioè, stiamo già volando da qualche altra verso parte. Marte. Allora. Ma no, ragazzi. No. Franco Mussida, noto forse al grande pubblico come membro fondatore della PFM, la premiata Formulina Marconi, ma poi il Centro Professione Musica e poi soprattutto adesso ci deve raccontare un grande progetto che ecco, è finito sui giornali oggi e in questi giorni, ma in realtà diceva prima porta avanti da diversi anni con le carceri italiane, cioè musica nelle carceri, che è un abbinamento che uno direbbe no, ma come è possibile? E invece no, allora intanto devo dire che siamo nel 2017, la musica è entrata nelle carceri in maniera pesante, così come c'è entrata il teatro, così come ci sono state tante arti in questo momento, però devo dire che La frequentazione antica, che comincia nel 1988 nel carcere di San Vittore per una quindicina d'anni, però diciamo che sono sempre rimasto un po' sotto traccia, non ho mai voluto parlare di questa cosa, ma lo devo fare perché nel 2013 invece è partito un progetto che è finanziato dalla SIAE, all'epoca c'era Gino Paoli presidente appunto nel 2013 e che lo conobbi nel carcere di Poggiorellari dove portavo il progetto di San Vittore. E allora lui mi chiese ma possiamo fare qualcosa nelle carceri con la musica? Ha detto sì, vabbè, ma cosa possiamo fare visto che adesso in ogni caso c'è la possibilità di sentirla anche e la musica all'interno delle carceri. Mancavano dei luoghi dedicati a lei tutti i giorni, non soltanto un one spot, ma che potesse fare il suo lavoro. Bello, lei la musica. Lei sì, nel senso che lei è il più grande stabilizzatore dell'umore esistente e il più grande concorrente delle case farmaceutiche, però non viene utilizzato in questo modo. Ma tra l'altro, Veronica e Leonardo ci chiedono subito, ecco, quello che ha appena suonato Franco Mussida, dovreste usarla come nuova sigla dei funamboli, rubategliela subito. Sì, certo, arriva qui il grande Franco Mussida e noi li rubiamo. Si chiama Orizzonte del Cuore, tra l'altro. Sentendo parlare Franco Mussida mi vengono subito in mente due film. Uno è Le ali della libertà. Bellissimo. Dove lui, il protagonista, si adopera per comprare un giradischi e poi per diffondere la musica all'interno del carcere. E poi qualcuno volò sul nido del cuculo. Effettivamente, sì. È questo però, qualcuno volò sul nido del cuculo, dove Jack Nicholson a un certo punto mette in filo di fusione la... Quello è il mio film preferito. Ma Franco, io volevo chiederti, tu riscontri realmente un beneficio proprio in termini psichici nelle persone che incontrate nelle carceri attraverso la musica? Allora, guarda, siccome questo lavoro nasce da 30 anni di esperienza, sono audioteche divise per stati d'animo prevalenti, quindi Alla musica si accede soltanto se l'individuo vuole vivere un determinato stato d'animo tra i 27 che sono elencati lì. E di fianco a me c'è un'università, c'è l'Università di Pavia. Visto che io sono un musicista e il mio lavoro è quello di stabilizzare il numero della gente, però spesso e volentieri i musicisti vivono giustamente per il piacere di fare musica e per il resto sono magari poco interessati, mentre invece io sono molto interessato a questo aspetto, soltanto che avevo bisogno di qualcuno che potesse comprovare che effettivamente la musica ci fa bene. Stabilizzare l'umore della gente è bellissima come espressione. Sì, scusami, non ho capito. Stabilizzare l'umore della gente è un'espressione molto precisa, molto bella. Ma è quello che fa la musica. Cioè, noi siamo dei meteorologi dell'umore al contrario. Ma tra l'altro, ci becchiamo spesso. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda proprio Re Bibbia, dove è stata fatta una sonorizzazione di 357 metri di corridoio. Ha partecipato anche Arturo Zampaglione, insomma, è Federico Zampaglione di Tino Mancino. E, controllare l'odio, l'avete chiamato così? È proprio questo il nome del progetto? CO2. Si chiama così, che è un'entità carbonica che sappiamo non fa tanto bene. E nello stesso tempo non fanno tanto bene alcuni sentimenti che ovviamente in luoghi così estremi prendono corpo come incendi di grandi foreste che poi travalicano le mura stesse. E allora lavorare lì dentro significa anche in questi luoghi estremi significa anche provare davvero cosa l'arte può fare. La sonorizzazione cosa significa? Sonorizzazione significa 350 metri di corridoi che le detenute facevano ogni giorno nel silenzio più totale, con il riverbero delle proprie scarpe e la distruzione dei propri pensieri, a questo punto lì dentro ci sono 30 altoparlanti con una musica tra l'altro tirata fuori dalle audioteche dalle detenute, per cui ogni mese le scelgono loro, che a questo punto diventa una sorta di culla. Per cui i pensieri diventano, diciamo, si fanno in qualche modo cullare da questa cosa e magari quelli più negativi riescono a scivolare. Che tipo di musica via. È la più richiesta? Comunque musica pop in generale? No, assolutamente. Dunque, intanto c'è il massimo della sapienza diciamo del pianeta, perché la musica è solo musica strumentale, quindi c'è tantissima musica classica, c'è jazz, c'è musica da film, c'è musica etnica, c'è tutto quello che in qualche modo ha in sé una vitamina che è la vitamina della bellezza. E in questo noi siamo abbastanza rigorosi. Ovviamente quando si parla di carcere arriva sempre a questo punto, in genere arriva dopo 10 secondi il messaggio di questo tipo. È un classico. Se sono in carcere sono delinquenti. Non si capisce neanche, è giusto che lì in qualche modo si espii la pena, però qual è il problema? Il problema è che se tu entri in carcere incazzato duro con il mondo o perché sei diciamo predisposto alla delinquenza e non fai qualcosa per i tuoi sentimenti che sono quelli che in qualche modo poi ti orientano nella vita diventa una parentesi spesso volentieri. I dati sulla recidiva. Si abbassano quando si fa qualcosa, soprattutto il lavoro è lo strumento fondamentale da fornire nel carcere, ma anche l'arte, tu citavi il teatro, ma il lavoro, se tu sei incazzato con il mondo e sai fare il panettiere e dentro qualche cosa non ti cambia, a un certo punto ti capita di prendere una, se ti girano le palle, prendi una pala e stendi qualcuno, per cui il problema della gestione dei sentimenti è fondamentale, quindi la musica questo fa. Sembra un po' anacronistico, ma invece poi ha una grande importanza, no? Nella vita anche di oggi. Ma è la nostra, il mondo dei sentimenti è l'elemento orientatore della nostra vita, cioè quello che ci orienta. I pensieri arrivano dopo, la razionalità arriva dopo. Franco, ma vi siete mai avvalsi, per esempio, della consulenza di qualche psicoterapeuta e persone che abbiano corroborato la vostra, chiaramente, teoria, ma Detto, c'è un'università che è l'Università di Pavia con un comitato scientifico fatto da neurologi, psicologi e sociologi. Io sono il musicista che se l'è inventato insieme con il CPM Music Institute, che è un luogo che fa ricerca e quindi è una scuola di musica parificata e conservatorio che io dirigo ormai da 30 anni, ma che fa ricerca. E essendo io però musicista avevo immediatamente la percezione che non sarei bastato, e quindi di fianco a me c'è tutta una pletora di roba. Guarda, non preoccupare. No, tra l'altro arriva un messaggio di Massimo che dice: ho visto almeno 30 concerti della PFM, tu Franco sei la musica. Questo è il Franco, tu sei la musica. E io non ho il coraggio di chiedere, perché dai Ale, che cosa vuoi chiedere? Dai, forza, ma su. No, ma su. Dai, che ce l'ho io la faccia, lo sai. Ma no, su, ma che perché devo sono le cose che poi gli artisti non amano in questo momento. Io, insomma, c'è la solo di Amico Fragile di André. Che... La solo di Amico Fragile di André. Pensa che mio figlio. Ma mica prende la chitarra. Pensa che mio figlio Sandro. Mica prende la chitarra. No. Pensa che mio figlio Sandro. Mio figlio Sandro. Neanche giugno 1973 di André. No, niente, io ci provo. Sappi che se lo fa, lo fa contro voglia. No, ma dopo vi faccio sentire una cosa che credo metta d'accordo tutti. Però mio figlio Sandro mi chiedeva: ma papà, ma questo assolo che è così bello, ma perché ragazzi non lo fate tutte le volte che fate i concerti? E io gli ho detto: guarda, c'è un piccolo problema, che per interpretare a fondo questo assolo tu devi vivere la disperazione, perché la disperazione è il motore di questa roba. Se anche posso non disperarmi tutti i giorni, sarei felice. Bene, no, non vogliamo farti disperare. Allora, beh, io ci ho provato, ho fatto il mio tentativo patetico di cercare di fargli suonare questo, ma pazienza, non importa. Ci chiedono a solo di Altaloma. Adesso sono le richieste come nella radio anni 70. Certo. E adesso gliele leggi tutte per cattiveria, no? Perché non te l'ha fatta, una dopo l'altra. No, assolutamente. Ecco, devo dire, sono 12 le audioteche, nel senso che abbiamo citato Re Bibbia, ma anche Dozza a Bologna, Santa Maria Maggiore a Venezia, il carcere di Sollicciano, Secondigliano, Monza, Opera, San Vittore, sì, Torino, Monte Acuto, Marassi, Parma. Beh, insomma. Ma ci piacerebbe portarlo in Europa. In Europa? Assolutamente bello. Sì, perché bello. Questo progetto è un progetto che noi italiani, di cui dovremmo andare orgogliosi, perché ci hanno bastonato veramente tanto dall'Europa per quanto riguardava le carceri, e devo dire ha ragione, però abbiamo anche qualcosa da dire. E quindi spero tanto di poterlo portare in Europa. Tu ti sei abituato, diciamo, frequentando molto le carceri, a vivere quell'atmosfera che comunque è faticosa e pesante per chi ci entra, diciamo, per tutti, e poi per chi ci entra da esterno, no? Sì, devo dire che le prime volte che ci entravo, quando tornavo a casa, andavo a dormire. Cioè, l'unico modo per riuscire a recuperare forze era quello. Dopodiché, intanto la frequentazione, ma poi devi capire che devi portare a casa tante energie positive, perché quando sei là devi soltanto dare qualcosa. Cioè, il discorso del dialogo, del ricevere, sì, va tutto bene, però quando sei là devi poter offrire qualcosa. E quindi devi ricambiare, la musica è un ricambio meraviglioso. Ma atteggiamenti invece un po' ostili all'interno delle carceri, persone refrattarie che sulle prime vi guardano come a dire: ma questi che vogliono, ce ne sono? Sì, io mi ricordo quando ho presentato le audioteche nel carcere di Secondigliano, c'erano 30 camorristi che mi guardavano come un marziano. E io avevo preparato una presentazione dell'audioteca che avevo fatto a Re Bibbia Femminile. Ho preso il foglio che avevo davanti, l'ho stracciato, ho preso la chitarra e ho suonato per 20 minuti. E dopodiché. E lì è tutto cambiato. E dopodiché ho cominciato a parlare delle audioteche. E quindi è stata una cosa meravigliosa. Si sono iscritti in 18. Di quei 30, ma volevano iscriversi quasi tutti, ma è stata una cosa veramente fantastica. Allora, facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, perché poi quando rientriamo Franco Mussida farà un regalo, farà un regalo per tutti noi, e nel senso che ha un qualcosa. Beh, non voglio troppo anticiparlo, no? Tra poco. Intanto accordo la chitarra. Stai un secondo. Tu non molestarlo intanto. I funamboli. Allora, arrivano i messaggi. Francone, scrive uno, Dario. Francone, con punti esclamativi, vuole salutare Franco Mussida, che è venuto a trovarci qui negli studi di Milano di Radio 24. E allora a lui, non dico la parola, ma a lui la chitarra. Ogni nota è preziosa come un uomo. come il suono del suo cuore, il suo respiro, come il suo primo e ultimo sorriso. È il lampo di un pensiero, come il mistero che hai negli occhi, come il gatto, la luna, un oggetto caro che adori, come gli amori che verranno sempre, verranno. E i vecchi lo sanno. Ogni nota è preziosa come uno strillo. La paura di un bambino appena nato è un petalo di cielo, una lacrima versata su un prato di emozioni calde come il sole, fredde come la lingua sul gelato e come il giorno e la notte come due uova rotte ma che ci nutrono. Ogni nota è preziosa come una donna, mai seconda ad un uomo, perché a darti una carezza è sicuro, sarà sempre lei la prima. Ogni nota è una madre bambina che dondola sull'altalena, è una stella, è fiducia piena, tutta da respirare, è armonia che insegna a stare insieme, è il suono del progresso, ma non quello del denaro, del mercato, delle cose. Lei non ci vuole prigionieri, ci vuole liberi. Ogni nota è preziosa come il tempo, è ciò che è sempre stato, è il vento della storia, la vita a futura memoria. Ogni nota è preziosa come un uomo, come una donna, come un figlio, perché una nota è musica, e la musica, la musica, siamo noi. Franco, questa canzone ci vuoi raccontare qualcosa? Questa canzone io la faccio questa mattina con il cuore in mano, perché da un lato è mancata una persona che io adoro, che era il direttore dei corsi del CPM, una persona che sta con me da 25 anni ed aveva nel suo cuore un cromosoma di santità. Sono persone normali, lei era una persona assolutamente normale, tutti i giorni dedita al suo lavoro e al suo amore per la musica, aveva solo questo. E poi lo voglio dedicare a tutti i detenuti e alle detenute di Rebibbia, alle quali non sono riuscito a cantarla, a suonarla per loro, e poi a tutti, perché gli ascoltatori bene o male sono fatti di musica, anche loro, cioè certo. senza di loro noi non siamo nulla. Beh, insomma, grazie davvero, Franco. C'era nelle parole che dicevi l'idea che la musica ha questo senso di libertà che non è legata al mercato, no? Completamente. Secondo te è ancora così o la musica è diventata quasi completamente mercato? No, la musica è ancora così, nel senso che la musica puoi pensare di distruggerla, ma non ci riuscirai mai. Quando mi dicono, ma in fin di conti le note sono sette, si può fare ancora musica nuova? E certo che si fa musica nuova, perché? Perché le persone che l'ascoltano sono sempre nuove, non perché lei cambia, lei rimane la stessa, ma un ragazzo di 18 anni tra 20 anni avrà lo stesso rapporto con la musica dei ragazzi di oggi. Tra l'altro, Franco, vedi, molti chiamano anche per il progetto che porti avanti in carcere. Per esempio ci ha chiamato Luciano da Padova. Luciano, buongiorno, che ci vuole dire? Buongiorno, sono Luciano, sì, chiamo da Padova e lavoro da ormai tanti anni nel carcere Due Palazzi di Padova, come insegnante. Un insegnante statale, siamo la scuola del carcere. Una cosa molto importante, secondo me, mi trovo molto molto d'accordo con Mussina che sta usando, è la gestione dei sentimenti, no? La gestione dei sentimenti. Il carcere, a mio avviso, dall'esperienza che ho, è un luogo in cui esiste solamente un mondo concreto, non esiste più il mondo astratto. il mondo del simbolo, il mondo simbolico. Noi siamo chiamati a recuperare questo mondo simbolico e quindi a recuperare ciò che di vero, ciò che ci rende umani, il mondo simbolico, il mondo astratto. Con la mia scuola, il CPA di Padova, stiamo tentando di mettere su un progetto per certificare delle competenze all'interno dei percorsi scolastici, per ottenere poi quelle che si chiamava una volta licenza di scuola media, queste competenze di linguaggi non verbali. No? I linguaggi non verbali sono quelli che noi attuiamo senza la necessità di operare linguaggi. Chiaro. E quindi attraverso il teatro, con la Cinzia Giannellato e altre, e un coro, stiamo tentando di mettere su questo progetto per tentare... Poi, chissà, Luciano, qua c'è anche Franco Mussida, insomma, vedo che Padova non è nell'elenco delle carceri che finora avete toccato. Ma contatta la scuola che sì, magari ci teniamo dopo in contatto. Dopo vi mettiamo in contatto. Grazie Luciano. C'è anche Francesco dalla provincia di Verona. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Alessandro, buongiorno Veronica, Leonardo e buongiorno Mare e Franco. Come va? Ciao a tutti, bene qua. Ciao. Allora sì, intanto volevo fare i complimenti e soprattutto a Franco per la sua bellissima iniziativa. Ho letto qualcosa infatti che riguardo proprio sul progetto di, diciamo così, sonorizzare le carceri. E volevo condividere anch'io la mia esperienza, vorrei condividere anche quello che stiamo facendo. Noi invece nel carcere di Verona stiamo portando avanti un progetto di lavoro all'interno appunto del carcere. Adesso ho chiamato proprio perché stavo per andare a lavorare, a trovare i miei detenuti. E vorrei condividere anch'io quella che è la meraviglia e l'incredibile capacità, tra virgolette, redentiva del lavoro. Noi creiamo gioielli, noi creiamo anche accessori in pelletteria. Ed è bellissimo vedere e stare con i ragazzi e sentire quanto loro stessi ci credono nel potere del lavoro, nel potere. Ma il potere di avere uno scopo, cioè di non passare il tempo, così a guardare una parete, no? Esatto. Francesco, no, la ringraziamo per questa testimonianza. Qua arrivano tanti saluti a Francone, abbracci affettuosi. Gabriella chiede: a 53 anni sono pazza se volessi imparare a suonare la chitarra. Non è troppo tardi. Mai troppo tardi. Però, insomma, ecco. Franco, ma parlare con te la musica è una missione, viene da dire questo? No, io come dicevo prima Oscar Giannino che ho incontrato qua di fianco, sono un testimone di quanta bellezza ci sia in giro e di quanto occorra fermare la gente e per riuscire a fargliela vedere. Cioè, prova a immaginare quanta potenza di sentimenti ha prodotto la musica di Mozart, di Beethoven, di Bach, voglio dire, di Morricone, del jazz, dei Weather Report, di Zawinul, di Miles Davis. Quanta bellezza c'è dentro questa roba, quante cose che sono lì, basta fermarsi un attimo. Allora il mio compito in questo caso è di portare questa bellezza, legarla al mondo dei sentimenti e fare in modo che possa essere fruita da tutti. Qui arriva un messaggio da Ugo che dice: ricordo un concerto PFM in cui Finardi esordisce come supporter. Che vecchio che sono, che anni erano, te lo ricordi? Finardi che ha esordito come supporter. Sì, siamo nei primi anni 70, 73, ma allora 74. Ugo, dai, ma comunque in ogni caso il 2018 sarà un anno in cui mi rivedrete sui palcoscenici. Questa è una notizia. Questa notizia. Vabbè, insomma, visto che bene o male le cose che ho da dire interessano, io ho un debito con la mia generazione. Bello vedere una persona che fa da tanti anni musica che ancora ci crede così tanto. Ma questa, certo, è una cosa straordinaria. Poi arriva un messaggio, forse il messaggio: De André sarebbe orgoglioso di te. Io sono orgoglioso di De André. Ho acceso ora e sento il grande Francone Mussida. Ho capito, cari ascoltatori, ma che vite fate che uno alle 10.45 del mattino accende Radio 24? Adesso, come vi permettete di accendere solo alle 10.45 non fare Radio 24? Adesso, come stamattina. Facciamo adesso? Tra un po' abbiamo finito, caro ascoltatore. Ecco, e chiedela solo il amico Francone. Allora, oltretutto, dopo non aver sentito la puntata, giuro che non è mio cugino che ho scatenato in segreto. No, voi state lì, scrivete, ma nello stesso tempo. Aspettate l'autunno del 2018, poi ci vediamo. Autunno 2018. Allora, noi dobbiamo andare a fare le informazioni sul traffico, ma stai con noi, Francone, perché tra l'altro tra poco scateniamo il nostro Leonardo Manera. Franco, se cominci che anche c'è? Tu, mi fanno cenno che c'è Mauro Meazza. Mauro Meazza, cos'è? Devi entrare. Vuole venire a cantare, eccolo. Mauro Meazza. Attenzione. Vieni, attenzione, vieni. Tra poco viene a dire una cosa sulla manovra e la musica. No, Mauro, no, Meazza, sì, attento, è tutto vero. Franco, perché ti comincia a dire che tasse devi pagare. Vedrai che c'è una tassa sulla musica, io te lo dico subito. È tutto vero, entra Mauro Meazza. Signori, la situazione sta perdendo, sta andando fuori dal controllo. Andiamo al traffico e poi dopo Mauro Meazza ci dovrà dire qualcosa. Prendete appunti, perché facciamo un'unione qui tra la finanziaria e la musica di Francone Mussida. Francone ormai Francone, basta. Sì. Franco. Sì. I funamboli. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, oh really was, really was. When Jesus was, when Jesus was, he washed the sins away. Oh, happy, happy day. E certo, quando uno sbaglia chiede scusa, vigile, cittadino, bianco, rosso, nero, giallo. Quando uno sbaglia chiede scusa. È una forma di educazione, educare certe persone, certe teste di cazzo che pensano di fare quello che vogliono. Ho appena finito di ascoltare Manera nei suoi dialoghi fantastici. Chiedetegli di scrivere un libro, lo comprerai sicuramente. E va bene, affondiamo anche la letteratura così, ok. Cattivo, non hai spirito natalizio, sei una persona sgradevole proprio. Allora, attenzione, Mauro Meazza, Franco Mussida, cosa devi comunicare al mondo e a Franco? Guarda, ne approfitto per dire buongiorno, caro buongiorno. Alessandro, buongiorno a Leonardo Manera, buongiorno al maestro Mussida, che nella manovra che si sta in niente queste buongiorno ore, a me, Mauro. Veronica, scusami Veronica, buongiorno in particolare ah, a Veronica. Ah, ecco. Ah. Ma mi distrae il fatto di essere qui accanto a Franco Mussida, quindi sono molto emozionato. Ma devo recuperare assolutamente il mio aplomb, perché allora, nella manovra che si sta votando proprio lì dalle tue parti a Roma, poco sì, distante, devi sapere che all'articolo 1 al comma 352 bis viene riproposto il credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Bene. Fino a un massimo di 2.500 Franco, euro. Franco, capito? Quindi sarà un aiuto. Benissimo. Per i ragazzi, fantastico. Se volete mettere un chi se ne frega, però io dico che invece è importante. È lo specifico di Radio 24. I ragazzi del CPM, tutti quei 400 studenti che arrivano un po' da tutta l'Italia in CPM, lo sappiano che adesso poi faremo lo diremo. Esatto, puoi mandare anche questo, se vuoi, questo audio di Radio 24, questo inserto. Tutte le altre novità, regali, regalini e finti regali, ne parliamo tra poco a Due di Denari. Ah, è venuto qua per farsi lo spot. Questo no, adesso di manca soltanto che lo facciate cantare e poi abbiamo fatto tutto. Noi chiudiamo sempre con il sorriso sulle labbra. Il nostro Leonardo Manera si scatena nei Vox. Sì, c'era Franco, questa notizia qualche tempo fa su Repubblica, secondo la quale gli uomini poco alla volta si stanno femminilizzando, cioè stiamo diventando un po' più donne e anche le dimensioni del nostro organo stanno poco alla volta nei secoli, nei millenni, rimpicciolendo. Allora sono andato a fare un piccolo Vox per capire se effettivamente non così. Non vedo l'ora Franco, di sentirle. Franco Mussida ha detto dove sono capitato. Dai, forza. Non ne penso niente, ormai sono troppo vecchia per pensare a certe cose. Lei, signora, vede gli uomini che cambiano nel corso degli anni oppure no? No, non cambiano, sono sempre uguali. In senso negativo però. Abbastanza. Le donne quando vengono con te si lamentano oppure si trovano bene? Si lamentano. Qual è la lamentela più comune? È troppo lungo. L'uomo si sta femminilizzando e che anche nel corso dei decenni le dimensioni del pene rimpiccioliscono. A lei è rimpicciolito nel corso degli anni? Ma francamente no, mi è aumentato. Dice così per vantarsi? No, parole sante. In che senso? Perché un po' diventa l'ipertrofia dovuta all'età? Sì, la furia di non usarlo. Da quanto tempo lei non lo usa? Ormai anni e anni. E come si trova? Abbastanza bene, devo dire. È vero che ci stiamo femminilizzando? Ah, sei un poco interessata? Non ti interessa, ma tutta la categoria? No. Cioè, sei eterosessuale, però trovi... Assolutamente sì. Però non trovi uomini interessanti. Esatto. Com'è l'uomo interessante? È intelligente, colto. È troppo lungo. Avete visto rimpicciolire il vostro pene? È sempre quello il mio. È sempre quello? Sì. È sicuro? Rimpicciolito con l'età. Cioè, con l'età rimpicciolisce un po'? Un po' sì. Di qua, 2 centimetri? Sì, 1 centimetro, 2. Sono un cantante trap reggaeton, pianista DJ. Trap reggaeton, come si dice? Trap reggaeton all'italiana. Com'è il trap reggaeton all'italiana? Sarebbe tipo l'hip hop un po' più moderno, con delle basi un po' new, diciamo. New? Sì, nel senso. Cos'è il new? Roba nuova, diciamo. New? Sì, bravo. Secondo te fingono con te le donne o no? Ma dirò sincero, l'ultima con cui sono stato dice di non aver finto, quindi poi... Le altre invece sì, normalmente... Io ho avuto 160 tipe, perché ti spiego... 160 tipe? Perché le avevi drogate prima, no? Qualcuna sì e qualcuna no, perché comunque ci so fare, ho una persuasione, perché facendo il PR in discoteca... Qual è la tua arma segreta di persuasione con le donne? Allora, le parole... Tipo cosa bisogna dire a una donna per conquistarla? Così poi ti lo usi anche te. Eh sì, certo, ma no, anch'io che io di solito non concludo. Guarda, devi, allora, fai ridere una donna se è a metà coscia. Sei a metà coscia se sì. Fai ridere una donna. Per arrivare alla parte alta della coscia? Devi anche saperci fare, devi essere brillante, avere la risposta pronta, gentile, devi essere anche dolce, un po'... sbruffone, cioè l'uomo coraggioso, diciamo. È uno con dei disturbi mentali, praticamente, che è dolce, gentile, sbruffone, uno un po' disturbato. Sì, una persona infinita deve essere. Comunque. Infinita, anche un po' disturbato, e la donna cede. Secondo me non è che cede, cerca magari un capriccio e si diverte in quel momento. Tu sei la donna... Poi sei... magari il giorno dopo si dimentica di te, però... Si sono dimenticate in molte di te. Sì, qualcuno sì, qualcuno mi ha ricercato, qualcuno ha fatto qualche storia, però... Tu sei l'uomo che soddisfa il capriccio femminile. Guarda, io per esperienza tutte quelle che hanno avuto prestazioni con me se la ricordano, perché comunque mi chiamano... Come cosa positiva o negativa? È un ricordo positivo? In zona mi chiamano il trapanatore di via Padova. Credo che ci siano dei cambiamenti, per esempio l'alimentazione che è più ricca di proteine porta a un allungamento delle ossa, sempre, non l'ho studiato, sempre per sentito dire. Uno mangia tanta carne e vengono delle braccia lunghe. Diciamo queste fesserie, c'è... Lo diceva lei che porta... Guardi, se lo mettiamo in questi termini chiudo l'intervista. Si è piccata l'ultima, si è piccata. Dovete, allora, che genere il trapanatore di via Padova? No, ma Franco Musida, il trap reggaeton, obiettivamente, che genere musicale new, è? New. È un new genere musicale. Tu lo insegni nella tua scuola, il trap reggaeton. E sicuramente sta dentro nella popular music, però bisogna aprire una cartella particolare e andare a cercarla. Senti come risponde in maniera diplomatica. Dice, ma che minchia è il trap reggaeton? Leo, comunque questo era un regalo a me. Io le Vox mi fanno impazzire. Dipende dai soggetti che trovi. Quello il trapanatore di via Padova. Questa era tanta roba, tanta roba. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Ringraziamo davvero in modo immenso Franco Musida che è venuto a trovarci. Io ringrazio voi, un abbraccio a Mario Orlandi che è qua con me e a tutti voi e vi auguro ogni bene perché questo e soprattutto tanta bella musica. Bello. Grazie, anche questo. Perché lei a volte è anche meglio del Viagra. Ah, vedi? Musica, sempre la musica. E guardava Leonardo Manera nel dire questo. Chissà perché. Ci dobbiamo fermare. I Funamboli finisce qui. Buon Natale a tutti. Miei ma cari, noi ci siamo buon con Natale. Il buon Natale. Ciao. Tanti, tanti baci e buon Natale. Happy day.